Si sa che troppo spesso l'amore ti cerca poi ti lascia da solo. È come una stagione che muore, se cambia non avverte il tuo cuore. È furbo come un cane di strada che va con tutti non ha padrone. Bastardo amore che fa cantare, che fino in cielo ti fa arrivare. Bastardo amore che in un momento fredda il cuore c'entra dentro. Bastardo amore che muove il mondo, ti fa sognare poi porta il conto. Bastardo amore che se t'arrendi t'aggredisce con i suoi denti. Bastardo amore. Fa volare le ore, ma spesso ti calpesta l'amore. Però se solo riesci a tremare, tu fa di tutto, fallo restare. Bastardo amore che fa cantare, che fino in cielo ti fa arrivare. Bastardo amore che in un momento fredda il cuore c'entra dentro. Bastardo amore che muove il mondo, ti fa sognare, poi porta il conto. Bastardo amore che se t'arrendi, t'aggredisce con i suoi denti. Bastardo amore.